Come detto in anticipazione di puntata, partiamo con un resoconto del presidio fuori dal Tribunale di Milano del 24 marzo in solidarietà ad Alfredo e Vincenzo. Ne parleremo con una compagna. Ciao, ci senti? Pronto, ciao, vi sento. Ciao, ciao, grazie e benvenuta a Radio Tagadà. Allora, grazie a voi. Allora, niente, volevamo partire un po' appunto dalla giornata del 24 marzo. Con un resoconto del presidio che si è tenuto fuori al Tribunale di Milano. Sì, allora, venerdì 24 marzo in mattinata alle 9:30 è stato tenuto questo presidio davanti al Tribunale di Milano in solidarietà sia a Alfredo che a Vincenzo. Allora perché? Perché il 24 marzo c'era sia il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Milano, al quale Alfredo e i suoi avvocati avevano fatto la richiesta di domiciliari per motivi di salute. E precisando che la difesa ha spiegato che ha fatto questo passaggio più che altro perché era necessario in vista di una richiesta di parere alla giustizia europea, no? Che immaginiamo che sarà un po' questo il percorso. Dall'altra parte i magistrati hanno risposto, appunto, come sappiamo, negando, no, la richiesta di domiciliari, dicendo che le condizioni di salute del compagno non sono abbastanza gravi, anche se poi in realtà comunque non li hanno mai dati a nessuno i domiciliari in situazioni di questo tipo, se non ad esempio leggevamo al braccio destro di Messina Denaro sono stati dati i domiciliari, però sostanzialmente lui sta morendo, quindi lo fanno uscire per morire. Sì, ti sentiamo un po' male, se hai il viva voce ti chiediamo di levarlo, grazie. No, non ce l'ho. Ok, allora abbiamo un po' di problemi di connessione. Provo a migliorare, vediamo. Così è meglio? Sì, direi che così è nettamente meglio, grazie. Allora, erano le cuffie, ok. E poi un altro dato importante che per motivare il rifiuto, i magistrati hanno anche detto che le condizioni in cui versa Alfredo sono delle condizioni autoinflitte e quindi se le procurate da solo in buona sostanza. E nel frattempo il suo stato di salute è peggiorato perché sappiamo che ha avuto una crisi cardiaca, probabilmente anche per problemi legati ai macchinari, però insomma la situazione al momento è questa. Sì, tra l'altro, se non mi sbaglio, in realtà poi l'udienza che si doveva tenere al tribunale con Alfredo in videoconferenza e quindi Alfredo doveva essere portato dall'ospedale San Paolo al carcere di Opera per fare la videoconferenza, sì, per questa udienza, insomma, si è tenuta direttamente all'ospedale San Paolo, sì, per nel senso che sono andati per problemi di salute, quindi chiaramente problemi di salute ci sono, non è che si va, non ci sono. Va in contraddizione anche con insomma, le motivazioni. Con le motivazioni, con quello che dicevamo prima delle condizioni autoinflitte, eccetera, eccetera. Questo è un po' lo stato delle cose. Adesso la questione è chiaramente in divenire, anche l'Assemblea Cittadina di Milano sta facendo riflessioni e proposte in merito a come proseguire il percorso di solidarietà a sostegno della lotta e anche magari di allargarla in modo tale che possa essere ad esempio allargata anche alla condizione, alle condizioni generali dei detenuti, no? E quindi da qui però è un percorso in divenire, potrebbero esserci dei presidi sotto alle carceri. Ne discuteremo più avanti quando ci saranno maggiori aggiornamenti in tal senso. Sì, questa è più o meno la situazione di Alfredo che noi con la radio abbiamo provato a seguire con costanza da oltre 5 mesi e mezzo. Poi questo progetto radio si fermerà, però sicuramente i compagni e le compagne di Radio Onda d'Urto sapranno dare rilevanza comunque a questa questione che è arrivata veramente a un punto critico, a una situazione gravissima per lo stato di salute di Alfredo, che ormai non mangia da 5 mesi e mezzo, e per tutta una serie di situazioni di come lo Stato sta insomma dando risposta di fronte alle condizioni appunto del nostro compagno recluso in 41 bis, poi fondamentalmente per una questione di censura delle idee. Però dicevamo che il 24 marzo c'era anche il presidio, non era solo per Alfredo ma anche per Vincenzo. Se ci vuoi spiegare anche la situazione appunto di Vincenzo, per cosa era il presidio e come è andata anche la sua situazione a livello giudiziario burocratica. Sì, allora, il 24 marzo eravamo in attesa del verdetto della Corte d'Appello di Lione, che per quanto riguarda il compagno Vincenzo doveva pronunciarsi rispetto alla validità o meno del mandato di arresto europeo che lo perseguita a seguito dei fatti, lo perseguitava a seguito dei fatti del G8 del 2001. E abbiamo appreso con favore che la Corte d'Appello, ed è la terza volta che succede in Francia nel giro di 3 anni e 8 mesi, quindi dall'arresto avvenuto nell'agosto del 2019, arresto di Vincenzo, è la terza volta che una Corte d'Appello francese si pronuncia rigettando il mandato di arresto europeo, nonostante che quest'estate si fosse passati anche, la questione fosse stata mandata al vaglio della Corte di Giustizia Europea, che aveva espresso un parere vincolante a favore della esecuzione del MAE. La novità a questo giro è che il procuratore generale, che è l'alter ego del nostro PM qua, quindi l'accusa, avrebbe dovuto presentare ricorso in Cassazione entro 3 giorni dalla data del verdetto, quindi entro martedì scorso, e in realtà non lo ha fatto perché anche la stessa procura italiana non si è più fatta sentire, e di conseguenza il ricorso in Cassazione da parte dell'accusa non è stato fatto, e questo ha chiuso definitivamente la questione, nel senso che adesso Vincenzo Vecchi può vivere liberamente in Francia. Certo, non può venire qua in Italia fino a che il famigerato reato di devastazione e saccheggio che compone la sua condanna non cadrà in prescrizione, per questo ci vogliono 19 anni. E quindi, se facciamo i conti, la condanna sua è del luglio del 2012, no? Qua in resa esecutiva dalla Cassazione, e di conseguenza bisogna arrivare fino al 2032. E di conseguenza, insomma, lui non può mettere piede qua in Italia, però direi che c'è stata una vittoria abbastanza consistente, anche perché adesso, al di là della vita personale del compagno, c'è il discorso che il reato di devastazione e saccheggio di matrice fascista, quindi che proviene dal codice Rocco del 1930, non è passato, sicuramente non è passato in Francia, ma questo significa che non è passato all'interno degli ordinamenti giuridici europei, che invece, se fosse passato, avrebbe segnato un bruttissimo precedente per tutti e per tutte, per tutti coloro che comunque si impegnano nelle lotte e nei percorsi di critica, e che sicuramente potrebbero essere raggiunti da questo tipo di condanna, anche perché dopo Genova lo abbiamo visto applicato più e più volte, e per cui non ci sorprenderebbe. E le motivazioni per cui Lione ha rifiutato il mandato di arresto europeo ora sono pubbliche, sono sicuramente delle motivazioni di carattere personale privato, cioè hanno riconosciuto il fatto che Vincenzo si sia più che integrato all'interno della società francese, eccetera eccetera, però hanno anche fatto cenno a una motivazione un po' più politica, che è la sproporzionalità della pena rispetto ai fatti ai fatti segnalati, quindi ai fatti del G8, no? Alle azioni del G8 di Genova, avere appunto il reato di devastazione e saccheggio, che prevede una pena che va dagli 8 ai 15 anni, e anche in un caso dei 10 manifestanti sono stati attribuiti dati addirittura 15 anni di carcere, per loro è sproporzionato rispetto ai fatti di cui si sta parlando. In più poi loro non comprendono neanche la questione del concorso morale, che invece nei processi qua italiani, no, ai manifestanti in occasione del G8 è stato applicato a piene mani, cioè basta la tua presenza in un luogo in cui ci sono degli scontri o qualsiasi altra cosa, per renderti, se vieni identificato chiaramente, imputabile di ciò che sta accadendo, e questo per loro è sproporzionato, insomma. Sì, quindi, diciamo che da... Scusa, non volevo interromperti, volevo nel senso che, come dici tu, diciamo dal 2001 in poi sia il reato di devastazione e saccheggio, ma anche il reato di concorso morale, perché volevo ricordare che non solo nel processo del G8 di Genova, diciamo che da quel momento lì, dalla Cassazione del 2012, questo famigerato concorso morale è stato abbastanza sdoganato e viene usato sempre di più sia a livello repressivo nei momenti di piazza, in maniera, possiamo dire, abbastanza confermata, nel senso che ogni qualvolta si accadono delle situazioni di tensione in piazza, anche per dei livelli di conflittualità minore rispetto ad esempio a quelle che sono state le giornate del 2001, ormai la prassi è provare a dare intanto devastazione e saccheggio anche per un cartello divelto, per una vetrina. C'era uno slogan, io mi ricordo, era un po' più piccolino, comunque si diceva 15 anni per delle vetrine, e i giudici francesi, nonché siano giudici, hanno insomma confermato che comunque abbastanza sproporzionata questa cosa qui, e da lì in poi anche il fatto del concorso morale, anche per delle scritte, se in un corteo ad esempio fai delle scritte e c'è qualcuno che è lì a fianco a te e non ti impedisce di farle, ti danno concorso morale in imbrattamento, che è una cosa abbastanza, abbastanza assurda, ecco. Scusa, però secondo me ci poteva stare, ecco, questa integrazione, perché è continuativa nel tempo, non si ferma al G8 del 2001, ma ce la riportiamo ancora all'oggi. No, sono infatti, hai ragione perfettamente, strumenti giuridici che erano nati ai loro tempi, sicuramente devastazione e saccheggio per motivi emergenziali, e che vengono utilizzati a più riprese per reprimere le lotte sociali di qualsiasi livello, sia all'esterno che all'interno, quindi concordo perfettamente. E niente, poi mi pare comunque quel giorno lì, o comunque nei giorni a seguire, è uscita un'altra sentenza dalla Francia riguardo dei compagni che comunque erano andati lì durante la dottrina Mitterrand. Questa è una cosa che non avevamo deciso di parlarne, però non lo so se sai qualcosa e vuoi giusto accennarla a breve, perché mi pare che anche in quel caso, comunque a livello giurisprudenziale, mi fermerei lì, non andrei troppo nell'analisi, insomma, dei fatti specifici, a quanto pare comunque la Francia ha dato picche all'Italia. Esatto, è accaduta bene o male la stessa cosa in contesti e situazioni ovviamente del tutto diverse, no? Qui stiamo parlando dell'operazione Ombre Rosse, che anch'essa appunto ha previsto l'arresto di questi ex militanti, una decina più o meno, e poi l'avvio di una serie di udienze, un po' la stessa trafila, però più breve, perché si è interrotta, si è conclusa prima di quella che ha attraversato il nostro compagno. E alla fine martedì 28 marzo proprio è uscito il verdetto, che anche in questo caso, no, la giustizia francese respingeva il mandato di arresto europeo qui in maniera prioritaria per le questioni personali, comunque private, cioè anche perché stiamo parlando di persone che sono 40 anni, no, che sono in Francia e che quindi chiaramente sono vivono lì, non sono francesi ma quasi, insomma, e quindi questo, c'era anche una frase della magistratura francese che riporto, avevo letto, che può essere significativa, diceva: lo Stato italiano deve capire perché lo Stato deve fare politica e non vendetta. E penso che questo possa racchiudere un po' il senso delle loro decisioni, anche in questo caso di rigetto dei mandati di arresto europei. Sì, allora noi ti ringraziamo, quindi diciamo che a sto giro siamo riusciti a fare un'intervista con due note positive, una negativa, quella negativa però purtroppo è molto molto negativa, quindi noi comunque sia come programma radio che come individualità che fanno questo programma rilanciamo la solidarietà nei confronti di Alfredo. Invitiamo tutti un po' ad essere un po' più attenti, a drizzare le orecchie nel momento in cui ci siano delle chiamate pubbliche di solidarietà e iniziative. Noi magari non le pubblicizzeremo più perché la radio non la faremo più, però speriamo che comunque i compagni e le compagne possano scendere in piazza, perché non si può fare in maniera differente, non si può rimanere soprattutto indifferenti dinanzi al fatto che lo Stato sta facendo morire di fame un compagno nostro in carcere per delle idee, perché purtroppo poi il 41 bis applicato dalla Cartabia all'epoca era per questioni di censura per le sue idee, ora poi dopo dai vari tribunali se la stanno un po' per la sua identità più che per quel che ha fatto. Sì, e ora poi dopo i vari tribunali dicono no, ha preso condanne per 2,70, strage, ergastolo, eccetera, quando non è arrivata comunque ancora la condanna definitiva, ricordiamo, per scritta manent, un processo in appello, anche la Corte d'Appello ha deciso di non confermare la richiesta della Cassazione, quindi c'è tutto un iter veramente burocratico incartato e insomma, quindi portare solidarietà ad Alfredo fino all'ultimo respiro, questo è quello che ci sentiamo di dire. Noi ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere altro. No, niente, anch'io ringrazio voi, assolutamente su Alfredo ci aggiorniamo, ci saranno degli appuntamenti, concordo con te, è imprescindibile. Perfetto, grazie, noi continuiamo col programma, grazie. Va come bene. Al solito, a presto, ciao. Grazie, ciao.